Innanzitutto il mercato degli affitti gestito su piattaforme o in modo tradizionale ovviamente è un mercato che parte come tutti gli altri mercati da chi ha una dotazione immobiliare, quindi le case che può affittare e chi no, e di conseguenza i redditi che ne derivano, che siano appunto tramite piattaforma o meno, ma le piattaforme stanno davvero estremizzando e radicalizzando questo sistema, vanno sempre a beneficio realmente dei proprietari delle case. Molti dicono sì, però così i consumatori pagano meno. Dipende, innanzitutto non pagano così tanto meno degli altri, ma i consumatori allo stesso tempo sono anche quei lavoratori dei settori che possono essere quelli del turismo e della ristorazione che vengono in qualche modo poi discriminati all'interno del processo. Si pensi per esempio a tutti quei lavoratori che lavorano appunto negli alberghi tradizionali e dove in realtà no, hanno in qualche modo uno schema di retribuzione, tassazione, contribuzione sociale, che invece quando lo fanno dal punto di vista privato cioè non avviene. Dimora le diseguaglianze anche perché appunto questo è un sistema soprattutto che dice chiunque può affittare casa e quindi aumentare il proprio reddito, però in realtà è un reddito da rendita e non da produzione, no? In termini classici, e di conseguenza si estrae una parte di valore non da una vera produzione ma da una speculazione che appunto è quella sul prezzo immobiliare. Infine un altro punto che trattiamo in modo molto sintetico è quello che è la gestione attraverso l'individualizzazione, quindi la messa in qualche modo in affitto di beni privati, quindi micro proprietà, in realtà non incide soltanto sul mercato degli affitti ma su tutto l'indotto di quel settore, quindi anche le case di Airbnb vanno pulite e solitamente non sono delle agenzie strutturate, quindi hanno dei dipendenti riconosciuti a lavorarci, ma sono degli individui singoli. Sappiamo benissimo che l'individualizzazione e frammentazione del lavoro è quella cosa che spinge verso il basso i salari, la protezione sociale e così via, e quindi facendo aumentare le diseguaglianze sia economiche che sociali. Quindi in realtà è un tema che sta aggredendo fortemente le città e non soltanto quelle turistiche, ma soprattutto che impatta, no, in qualche modo sulla società in modo deleterio, perché poi lo dico alla fine, non l'ho detto all'inizio proprio volontariamente, c'è un problema: la messa in affitto degli immobili per i turisti, dove appunto il privato può guadagnare di più, significa sottrarre a tutte quelle persone che invece non hanno una casa e hanno bisogno di vivere in affitto la possibilità di farlo, da un lato perché i prezzi sono molto più alti e stanno costantemente aumentando, il caso italiano, il caso francese, spagnolo, anche soltanto per attenerci all'Europa, quindi non riescono ad affittare nei centri città, vengono sbattuti se vogliamo ai margini, alle periferie, dove già il contesto socio-economico e politico è più degradato come scelta proprio politica. Questo significa quindi che chi ha una casa può mantenere la propria rendita, arricchirsi, chi una casa non ce l'ha ma ha bisogno in qualche modo del diritto all'abitare ci perde due volte, ci perde come cittadino che ha bisogno di vivere e di un alloggio, ma anche come lavoratore per il quale di fatto il salario reale, cioè il salario dato rispetto al potere d'acquisto, diminuisce. Queste tue parole ci fanno capire come in realtà appunto diversi temi siano interconnessi e possano avere un impatto appunto su diversi settori. Ora, lungi da me fare l'apologia dei poveri proprietari immobiliari, che evidentemente un patrimonio ce l'hanno, quindi poveri non sono, spesso qualcuno dice che questa scelta è stata, diciamo così, indotta dai problemi della casa che inducono appunto a morosità e quindi ad avere inquilini che poi non pagano l'affitto. E quindi anche qui si intrecciano però altri ragionamenti. Esatto, cioè non si capisce perché l'impossibilità per un cittadino che è un lavoratore di non pagare l'affitto, perché magari appunto i suoi salari sono troppo bassi, perché probabilmente è un disoccupato senza assegno di disoccupazione, no, reddito minimo, schemi comunque di protezione del reddito, deve essere non soltanto bastonato ma anche accusato poi dell'altra scelta. Quindi i piccoli proprietari, che spesso sono anch'essi comunque dei lavoratori, dovrebbero prima coalizzare e far sì appunto che i salari di tutti, no, aumentino, così che si possa stabilire una società e un modello, anche se vogliamo, di partecipazione democratica migliore e più equo, piuttosto che dire no, sei povero e allora io agisco con quel po' di privilegio in più che ho, che in questo caso è una casa, sottraendoti quel diritto e invece cercando di speculare su chi invece ancora può permettersi di fare le vacanze. Poi ricordiamoci sempre che chi va negli Airbnb principalmente sono quelli che non vanno nei resort, quindi stiamo sempre parlando comunque di una fascia della popolazione che, sebbene non è sempre quella più povera o è anche eterogenea, però sicuramente vive, diciamo, nella stessa metà, se vogliamo, della, no, della distribuzione sociale. C'è un altro elemento che colgo sempre dal discorso che fai. Prima parlavi dell'individualizzazione anche dei rapporti di lavoro. È chiaro che se ci sono tanti lavoratori in un grande albergo, hanno più potere rispetto al singolo lavoratore delle pulizie che lo fa per un privato. Questa è un po' la tendenza, almeno io ci ravviso questo, che le aziende stanno tentando di fare da anni, cioè di distruggere i contratti nazionali per arrivare a una contrattazione quasi individuale. È questa la tendenza? A quale ideologia risponde? Ma sicuramente la tendenza è questa, l'hai spiegata benissimo, l'idea e quindi anche ideologia e visione di mondo sottesa è che ognuno in qualche modo è artefice del proprio destino e i propri meriti e quindi la propria, se vogliamo, qualità della vita e standard sono una questione prettamente individuale, no? Che dipende soltanto da noi, quindi se riusciamo siamo meritevoli senza chiederci del come siamo riusciti e quali erano le condizioni di partenza, e se non riusciamo siamo degli sfigati, dei nulla facenti e così via. Anche ammesso che partiamo da una situazione e quindi da opportunità uguali all'inizio, però come dire, no? Poi alla fine i risultati possono essere diversi per mille ragioni che invece prescindono l'individuo in sé, però ovviamente frantumare e quindi far finta che il lavoratore singolo abbia da solo lo stesso potere negoziale del proprio datore di lavoro, chiunque esso sia, appunto una piattaforma, un algoritmo o una persona fisica che lo incontra tutti i giorni, ovviamente l'aberrazione è la negazione fittizia di un rapporto di forza che è molto disequilibrato e molto bilanciato, perché appunto il datore di lavoro potrà sempre trovare un altro lavoratore, perché come sappiamo bene gli imprenditori capitalisti sono molto meno dei lavoratori nella società, il lavoratore si troverà sotto ricatto perché la sua opzione di riserva è la disoccupazione. Quindi in conclusione, sintetizzando, possiamo dire che Airbnb risponde a logiche liberiste? Sicuramente, cioè una delle è perfettamente una visione ultra liberista e quindi individualista di come agisce la società, di come appunto i mercati interagiscono tra di loro, che appunto non sono soltanto gli individui come vogliono farci credere, ma la società e i gruppi sociali nel loro complesso. Il problema è che in tutto questo, una cosa di cui non abbiamo parlato, è appunto chi fissa i prezzi di cosa, che sia il lavoro, che siano le case, che sia la rendita o la speculazione immobiliare finanziaria in generale. Quindi dov'è, diciamo, il potere per governare questi processi? In questo momento il potere, diciamo, istituzionale, di governo eccetera, è a favore di questi tipi, di questi meccanismi di produzione. E se ci facciamo caso, tutti questi ragionamenti che ci siamo fatti vengono sempre taciuti, anzi tacciati, e diciamo in qualche modo come dire messi di fronte a un altro termine che vuol dire tutto e nulla, che è innovazione e modernità.